anni dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Il tema della sua relazione è il compimento dei forme della creatura, l'antropologia soprannaturale come ristorazione della persona. Come ho detto, il professor Colzani insegna all'Università Cattolica di Milano. Vi così cito due o tre testi sulle produzioni dei suoi studi che riguardano appunto il tema che adesso ci presenterà. Un testo, l'antropologia teologica, paradosso e mistero. Un altro suo testo, l'uomo nuovo, testo sulla grazia, questo, un testo sulla grazia. Così altri molti studi che non sto adesso ad elencare, sempre su questo tema della grazia o temi attinenti. Do la parola al professor Colzani. Anch'io ringrazio Padre Valle e soprattutto il Comitato per l'invito. Il mio compito però è quello di far calare il discorso dalle altezze del Cristo Maestro e Sapienza e della Trinità Agapica ai temi dell'antropologia, più precisamente all'interno dell'antropologia teologica. La mia lezione si incentrerà sul problema della grazia e per forza mi collegherò alle riflessioni del professor Conigliaro, che ieri ci ha introdotto puntigliosamente nella costruzione dalle basi medievali perse nell'epoca moderna, ma ritrovate da De Lubac notoriamente, ma da Rosmini anticipatamente, circa il rapporto fra natura e soprannatura. Comincerei col dire che una veloce scorsa a due presentazioni ormai classiche della storia della grazia, come sono da considerare i lavori del Rondé e di Piet Franzen, o anche i lavori di Valgrave, porta a prendere nitidamente coscienza della ignoranza e del disinteresse che ancora oggi accompagna il pensiero di Rosmini. E anche un'analisi dei trattati circa la grazia di qualche decennio fa e di quelli recenti, come quelli dell'Auer, del Ganoczy, del Pesch, non porta a miglior conclusione. E queste osservazioni basterebbero a confermare quella ignoranza del Rosmini teologo da più voci deplorata e a cui si spera che questo convegno possa portare rimedio. Io devo dire, a mia colpa, di non aver mai utilizzato Rosmini nei miei studi sulla grazia, che pure durano oramai da 20-30 anni, quindi lo confesso a mia colpa. A ricordare Rosmini nell'ambito della teologia della grazia è padre De Lubac, nella suo lavoro Le Mystère du Surnaturel, anche se soltanto di sfuggita. Il contesto in cui lo cita sarebbe interessante, dato che De Lubac sta ricostruendo i precursori di quel rinnovamento della teologia della grazia che lui stesso e con lui la Théologie Nouvelle cercheranno poi di fondare storicamente e teologicamente. La sua attenzione cade su una serie di autori francesi e tra gli altri su Gratry, ed è parlando proprio di Gratry che ha un inciso in cui annota che en effet vers le milieu du 19e siècle, tandis que Rosmini tentait une meilleure interprétation des rapports entre l'ordre naturel et l'ordre surnaturel, interprétation trop dépendante de sa théorie générale de la connaissance, Gratry, eccetera. Quell'inciso è tutto quello che nei testi, nei manuali e nei dizionari sulla grazia si ritrova circa Rosmini. Perciò mi sembra che la strada attraverso cui possiamo procedere è da una parte il ricostruire la teologia della grazia al tempo di Rosmini, dall'altra vedere la teologia della grazia del Rosmini e infine tirare una qualche conclusione. La teologia della grazia del tempo di Rosmini è sostanzialmente la teologia della grazia post-tridentina, dominata dal suarezianesimo, o meglio ancora, da quel suarezianesimo che si è imposto con la teologia manualistica. Si tratta di una teologia decadente che reinterpreta in modo errato e non conforme al dettato autentico del tridentino, vuoi la tensione ontologica tra primato di Dio e libertà dell'uomo, vuoi la tensione esistenziale tra l'uomo peccatore e l'uomo giustificato. All'origine di questo fraintendimento vi sono i problemi posti dalla Riforma protestante, problemi che mirano a chiarire il preciso rapporto tra le due facce della esperienza cristiana, il primato di Dio e la libertà dell'uomo, due facce che la cultura del tempo finiva per contrapporre. E se il tridentino risponde in modo sostanzialmente corretto alle istanze protestanti, ricordando a tutti che unica formalis causa est justitia Dei, bisognerà dire che non sempre riesce a intendere e a presentare con esattezza le singole tesi dei protestanti. Alla base della incomprensione e comunque della diversità vi è la concezione ontologica, per niente esistenziale, che il Concilio di Trento farà sua quando, rifiutando la prospettiva più agostiniana, più esistenziale, più psicologica di un Seripando, accoglierà la tesi della justitia inerens, leggendola come condizione ontologica nuova. Ora Selainez, che ne è un po' il padre, Selainez manteneva a questa tesi ancora una piena relazione con l'agire di Dio, la teologia dei De Vega e dei Salmeron, che si imporrà nell'epoca post-tridentina, finirà per offrire invece un quadro statico e giuridico del rapporto della libertà umana con Dio. Il risultato è di fatto una enfasi sulla libertà umana, una enfasi accentuata dal molinismo, che conduce vuoi al primato della grazia creata su quella increata, vuoi all'affermazione della libertà nella linea del merito decongruo. Il senso ultimo di questa visione è quello di una libertà che sta di fronte a Dio come capace di interloquire con Lui, prima e più che all'interno dell'azione divina di grazia. E su questo sfondo di idee che si può capire il suarezianesimo. Più che del pensiero del Suarez, parliamo di quel sistema ispirato a lui che a poco finirà per imporsi. Il centro di questo sistema è una certa distanza tra la grazia creata che è in noi e la presenza misericordiosa di Dio. Questa distanza finirà per creare tanto lo spazio per una concezione automatica della grazia, quanto l'ambito per una esaltazione indebita della libertà. E laddove questa visione si unirà alla critica delle tesi baiane secondo la linea del tanquam spogliatus a nudo, finirà inevitabilmente per concludere alla teologia della natura pura. La grazia è aggiunta alla natura come un sovrappiù, in termini metafisici come un accidente. E se Suarez conosce ancora una certa disposizione positiva della natura umana verso la grazia, in base alla lettura medioevale della potentia obedientialis, dopo Suarez il rapporto fra natura e grazia, visto nei termini indicati sopra, sarà esaurito nella sola disposizione negativa, nella sola capacità cioè della natura di evitare il peccato. La grazia perde allora quel ruolo di causalità dispositiva di cui parlava la grande teologia medievale. Non anima, non guida, non orienta, ma sopraggiunge da fuori alla natura perfezionandola. Non è del tutto errato pensare che stia qui, in questa aridità e in questo vuoto dei sistemi della grazia, uno dei motivi che condurranno all'affermazione dell'autonomia umana, all'affermazione alla fin fine del razionalismo. Basti comunque ricordare che tra i luoghi che più facilmente risentiranno di questa impostazione bisogna richiamare tanto la preparazione alla grazia quanto la separazione tra la vita di grazia e la prassi cristiana. E non a caso la pedagogia e la morale costituiranno uno degli esiti obbligati del rinnovato pensiero di Rosmini circa la grazia. A questa visione suareziana, al tempo della teologia post-tridentina, in parte anche al tempo di Rosmini, a questa visione suareziana si opponeva l'agostinismo. Se i dibattiti suscitati da Baio e da Giansenio sembrano concludersi con la sconfitta dell'agostinismo, in realtà l'influsso di questa corrente di pensiero non mancò mai di farsi sentire negli autori di spiritualità, in particolare negli autori della scuola berulliana, che non contano tra di loro soltanto un Condren, ma anche il patrologo Thomassin, che è importante per Rosmini, e soprattutto Lié, che è importante per la spiritualità dei seminari. Ecco, dicevo che la corrente agostiniana continuerà soprattutto attraverso gli autori di spiritualità, perché questi rifiutano il sistema della scolastica e guardano alla grazia in senso vitale ed esistenziale. In questi autori le tesi di una justitia operum si fonde probabilmente con la grande tradizione teologica e mistica propria dei francescani. L'opposizione alla sola fide protestante viene letta non nel senso di un mutamento entitativo, quale si darebbe nella grazia creata, ma viene letta nel senso di una vita secondo la caritas. Quella vita che Trento, nel grande capitolo 16 del De Justificazione, ispirato e di mano alla fin fine tutto disseripando, quella vita che il capitolo 16 del decreto della giustificazione presenta come frutto della giustificazione, il merito, è in realtà in questi autori di spiritualità profondamente connessa più direttamente al tema della giustificazione. Allora si può ben comprendere come questo interesse differente rispetto alla scolastica dominante portasse questi autori a riprendere le tesi di Petavio su una inabitazione propria dello spirito, non solo appropriata allo spirito. E la ritrovata centralità della grazia increata, della presenza di Dio nell'anima, è una centralità che modifica tutto intero l'ordine del pensiero. Non si tratta solo di una tesi aggiuntiva, quasi fosse un pezzo mancante, poi ritrovato e riproposto. Si tratta in realtà di un ripensamento profondo della grazia che comporta una rilettura diversa della vita cristiana, inevitabilmente trinitaria, e una comprensione diversa dei rapporti fra la grazia e la libertà. Tra i discepoli di Petavio e quindi di questa impostazione dobbiamo certo annoverare Lessio e Thomassin. Dobbiamo però considerare discepoli di Petavio in senso lato, evidentemente, tutti quegli autori che si collocano nel solco della rinascita di una teologia della grazia di stampo patristico, Newman, Scheven, De Regnon, ne saranno forse gli artefici principali. Nelle sue lezioni sulla giustificazione che Newman mantiene ancora anglicano, lui cercherà di dare consistenza alle sue tesi su una via media tra il protestantesimo e il cattolicesimo, legando il sola fide con il sacramento del battesimo, porta al centro una vita nuova e rigenerata, che se opera della fede soltanto, non si riconosce però nella fede fiduciale, ma nella fede fruttuosa di opere e di vita. Il battesimo, infatti, è lo strumento esteriore di quella rigenerazione, di quella vita nuova che ha nella fede il suo strumento interiore. Al contrario, Scheben svilupperà soprattutto la teologia dell'immagine e in questo senso presenterà la grazia come un rinnovamento profondo e misterioso dell'anima che, se trova espressione nelle tesi tomiste di una divinizzazione e di una connaturalità dell'anima con Dio, concluderà a una vita di unione con Dio di stampo praticamente mistico. Questi autori, quasi o contemporanei a Rosmini, dicono come il movimento di rinnovamento della teologia della grazia era di fatto nell'aria. Va detto che, nonostante la loro importanza, le tesi sulla grazia che questi autori hanno espresso non si imporranno, e che lo stesso primato della grazia increata dovrà attendere i lavori molto più scolastici del De La Taille e di Karl Rahner per imporsi. Tra questi discepoli inascoltati del Petavio, io credo, in genere perlomeno tra coloro che si rivolgono al di là della scolastica, alle radici agostiniane del pensiero, tra questi autori dobbiamo collocare anche Rosmini. Serofilli, esaminando il tema della inabitazione in Rosmini, ha documentato come tutti i testi patristici utilizzati dal Roveretano sono ritrovabili, sono presenti nel libro ottavo della parte seconda del De Trinitate del De Theologicis Dogmatibus del Petavio. Quindi c'è una conoscenza diretta, anche se Rosmini raramente cita Petavio, cita più volentieri altri. Ma in ogni caso Rosmini ha una lunga consuetudine con le opere di Agostino e con gli agostiniani come Noris. Certo, la sua diversa visione della teologia lo porterà a delle conclusioni teologiche differenti. Rosmini si applicherà a una penetrazione intellettiva del dogma, perseguendo così ad un tempo e l'approfondimento intelligente della fede e la pienezza della comprensione umana. Intelligenza umana. È in questa visione di insieme che io vorrei collocare la teologia della grazia del Rosmini. Per una felice sintonia, la teologia della grazia di Rosmini, che è quasi totalmente nella antropologia soprannaturale, fa riferimento a un'opera iniziata esattamente come oggi la postilla a mano di Rosmini sui manoscritti, iniziata a Trento il 4 di maggio del lontano 1832. Quindi, se non altro, è una felice commemorazione. Ecco, dei sei libri preventivati dal Rosmini, sono compiuti solo i primi tre, mentre il quarto, dedicato ai sacramenti, si ferma dopo aver toccato il De Sacramentis in genere e di quelli in specie dopo aver presentato il battesimo, la confermazione e in parte l'Eucaristia. L'ultima data siglata dall'autore sulla sest'ultima pagina è quella del 27 aprile 1836. Si tratta quindi di 4 anni che dicono come la compilazione dell'opera dell'antropologia soprannaturale sia stata abbastanza faticosa e mai continua. Dei primi 3 libri, quelli che ci sono giunti, Il primo affronta, il titolo è questo, i confini della dottrina filosofica e della teologica e contiene una impegnativa chiarificazione della nozione del soprannaturale ed una sua applicazione alla antropologia. Il secondo, dal titolo L'uomo perfettamente costituito, sviluppa il tema della condizione originaria dell'uomo creato da Dio. Il terzo, infine, L'uomo peccatore per natura, affronta la questione del peccato originale e delle sue conseguenze nella storia. Il quarto, dedicato ai sacramenti, è intitolato L'uomo santificato, mentre il quinto e il sesto avrebbero dovuto essere dedicati rispettivamente all'uomo redentore e alla donna madre del redentore. Questa incompiutezza non può che pesare sulla possibilità di ricostruire a fondo l'antropologia soprannaturale di Rosmini. Il materiale che ci è pervenuto è però abbastanza vasto per elaborarne una comprensione solida, fondata. E già la semplice successione dei libri permette di apprezzare la relativa novità di metodo e di contenuto della impostazione del Rosmini. Il nucleo del suo lavoro, caratterizzato dai libri che vanno dal secondo al quinto, è di stampo storico-salvifico ed è in senso lato di ascendenza agostiniana. A questo nucleo è fatto precedere il libro primo, che ha il chiaro sapore della chiarificazione critica del problema sotteso alla questione della grazia, ed è fatto seguire da un libro, il sesto, che probabilmente avrebbe dovuto avere il valore di un ampliamento e di una immagine riassuntiva di tutto il discorso antropologico. Non è possibile allora entrare nel discorso della grazia se non per quella via per cui vi entra Rosmini, cioè per il problema critico che vi pone. Se in linea di massima Rosmini richiama il dato tradizionale che oppone la lettura cattolica della grazia a quella protestante, la sua sensibilità lo conduce però ad avvertire nel razionalismo il vero problema di ogni impostazione del tema della grazia. Il problema critico sorto, posto dal razionalismo, è legato per Rosmini da una parte alla opposizione tra ragione e fede e dall'altra alla opposizione fra teoria e pratica. La prima opposizione, quella fra ragione e fede, è discussa in base alle opinioni di Beckscheider e la tesi di Rosmini è quella classica, tesa cioè a valorizzare la ragione mantenendola nel solco dell'atto con cui la persona si rivolge a Dio, atto che ha nella fede la sua indubbia e più alta espressione. La seconda questione, quella che oppone teoria a prassi, mette a fuoco il problema morale, ma più vastamente il significato esistenziale della grazia e il possibile dramma insito nella distinzione tra essere ideale e essere reale, tra ragione speculativa e giudizio pratico, diventa purtroppo amara realtà nella figura del peccatore. Solo la fede viva, congiunta cioè alla carità, realizza un assenso intelligente ed operativo al Dio che si rivela. Si può così ritenere che l'intento di Rosmini sia quello sì di una presentazione della dottrina della grazia radicata nel dato tradizionale, ma dove il dato tradizionale è però messo di fronte a sfide nuove del proprio tempo e della propria cultura, che il credente deve, e ha in sé la forza di farlo, deve superare a partire appunto dal dato stesso della sua tradizione. In qualche modo, allora, la sua intenzione è quello di superare entrambe le opposizioni tra fede e ragione, tra teoria e prassi, offrendo una visione della grazia soddisfacente per l'intelligenza e per la volontà, capace cioè di indicare nella comunione con Dio e la pienezza teorica e la pienezza esistenziale della persona. A questo compito Rosmini dedica i libri che vanno dal secondo al quinto. La mancanza del quinto libro non ci permette di apprezzare per nulla il posto che Rosmini avrebbe attribuito a Cristo. Così com'è, di fatto, il suo impianto è più di stampo storico-salvifico, patristico, per intenderci, agostiniano, che non cristocentrico. Certo, quando diciamo storico-salvifico, non intendo dire che Rosmini anticipi le tesi fondate su una teologia della storia della salvezza di stampo raneriano, quali si ritrovano negli 11 volumi del Mysterium Salutis. Si muove sullo sfondo del pensiero dei padri, per i quali la storia della salvezza si avvera in Gesù e si compie nel dono del suo spirito. Il dono dello spirito è la sua viva e santificante presenza nell'anima. Ed è questa la visione di Rosmini. La grazia, scrive, non fa solamente l'effetto di impellere attualmente l'umana volontà al bene morale come uno stimolo esterno che, dato il suo colpo, si ritira senza incorporarsi stabilmente con noi. E Dio, con quell'azione che si chiama grazia, si unisce realmente con noi e permane con noi unito, sicché in noi è per la grazia qualche cosa di divino che prima non esisteva, congiunto e quasi concorporato con l'essenza dell'anima nostra. Questa visione, a parer mio, supera non solo la teologia scolastica, ma anche la teologia dell'agostinismo, perché la visione abituale di questa corrente si fermava a una concezione della grazia come auxilium, come adiutorium, implicando in qualche modo un primato logico del peccato umano. Nel quadro invece della teologia greca, Rosmini ripensa l'inabitazione in ordine a quella pienezza antropologica che per lui è dato di tradizione, ma che è anche risposta alle sfide del suo tempo. Spiace poi che non ci sia giunto il libro sesto. Probabilmente avrebbe colto in Maria il realizzarsi pieno del dono della grazia e della risposta umana di fede. In ogni caso, già la collocazione del tema mariano all'interno dell'antropologia soprannaturale è significativa di per sé. È significativa della sua volontà di non considerare Maria come un tema a sé stante, ma come un tema correlato alla grazia e alla grazia di Cristo. Non solo non ne lederebbe il primato, ma presumibilmente avrebbe dovuto manifestarlo ed esaltarlo. Ecco, è su questo sfondo che io vorrei raccogliere le tesi di Rosmini circa la grazia attorno a tre insegnamenti: la nozione rosminiana della grazia, la grazia come ristorazione, la grazia come compimento. Innanzitutto la nozione rosminiana della grazia. Per il Roveretano la grazia non è solo una virtù particolare, ma il principio e la radice di tutte le virtù, un vero principio nuovo di azione creato nell'uomo da Dio. A me pare che questa visione sia francamente tradizionale. Con questi termini, che ritornano varie volte nelle pagine dell'antropologia soprannaturale, Rosmini si attiene al significato antropologico della grazia, al mutamento operato dalla giustificazione nella persona, in parole povere, si attiene al tema della grazia creata, al rinnovamento, al cambiamento della persona, pensata correttamente come dono, come creazione di Dio. La grazia creata è una vita dipendente pienamente dall'agire di Dio. Tuttavia è a partire da questo punto che Rosmini risale a poco alla concezione personale della grazia e alla concezione moderna della grazia, per gradi. Il primo grado è l'approfondimento di questa trasformazione. In modo sintetico, ma chiarissimo, Rosmini ricorderà che la vita di grazia è una vita deiforme e triniforme. Per operazione deiforme, scrive, io intendo una operazione che non solo ha per principio il Dio, ma che essa stessa e il suo termine è il Dio. Dell'operazione della grazia, e Dio è il principio ed anche il fine, è la causa ed anche l'effetto, per così dire, e perciò questa operazione è deiforme. Non è difficile cogliere in queste parole l'eco del capitolo settimo del decreto di giustificazione, laddove il Concilio di Trento precisa la causa formale e anche le altre quattro, efficiente, finale, meritoria e strumentale. Ma in quel contesto in cui precisa la causa formale, offre il materiale che Rosmini riassume con il suo linguaggio, presentando la grazia sotto il profilo di una formalità comprensiva del fine. Per Rosmini, forma di una cosa è quell'elemento, scrive, che entra in una cosa per il quale la cosa è posta in atto. La concezione deiforme della grazia esprimerebbe così le concezioni proprie della grazia abituale degli scolastici, riassumendo la causalità formale e finale della giustificazione. La vera novità, a parer mio, sta nella presentazione triniforme della grazia. Dall'essere dunque l'augustissima Trinità, termine della operazione della grazia e forma dell'anima santa, ci parve poter acconciamente chiamare questa operazione non solo deiforme, ma anche triniforme. Orbene, laddove la spiegazione del Rosmini si lascia alle spalle le concezioni agostiniane delle vestigia trinitatis ricercate nel mondo della natura, per spiegare il triniforme attraverso il tema di una inabitazione propria, non solo appropriata allo spirito, noi siamo al di là della concezione abituale della scolastica. Siamo al primato della grazia increata. Ho già segnalato il debito che Rosmini deve a Petavio. Qui importa sottolineare come si dedichi a svilupparne la prospettiva in modo più teorico e più sistematico. Petavio non lo fa, non è il suo lavoro, ma nemmeno i suoi epigoni, tranne forse un poco Lessio. Per Rosmini, lo Spirito Santo, la carità divina, informa le nostre anime. È adunque proprietà intrinseca e costitutiva dello Spirito Santo, secondo le dottrine tradizionali della Cattolica Chiesa, tanto l'essere la santità o carità nozionale del Padre e del Figlio, come l'essere il principio della santità o carità nostra, sicché la nostra carità è una partecipazione della carità di Dio con se stesso. E come abbiamo detto più sopra coi santi Agostino e Fulgenzio, amiamo Dio con Dio, né con altro si può amare, poiché con altro non si può neppur concepire, se non con se stesso. In modo splendido, anche se non semplice, Rosmini cerca addirittura di procedere ulteriormente, illustrando il tema della grazia increata, il primato della grazia increata, l'inabitazione propria dello spirito, attraverso l'analisi dei rapporti tra lo spirito e il verbo. Per farlo si serve della sua antropologia. Ma quello che non si dovrebbe dimenticare è che l'appoggia solidamente sulla tradizione. È tradizionale, infatti, il raccordare la struttura della grazia con le missioni delle persone divine. La grazia non può che essere economica. Inoltrandosi in questa direzione, Rosmini sostiene che se il verbo si mostra all'intelletto, non è tuttavia realmente accolto, non entra realmente in noi se non là dove la volontà se lo appropria, cioè laddove lo spirito opera di fatto nella volontà della persona, rinnovandola e santificandola. Or dunque, scrive, se la luce del verbo si riceve in noi con un atto della volontà, e se è nella volontà appunto che il Divino Spirito esercita la sua azione, muovendola al riconoscimento del verbo, e gli è manifesto che il verbo non entra nell'uomo né vi fa sua sede se non per un'azione che convenevolmente allo Spirito Santo si attribuisce. Questa è la spiegazione che Rosmini offre del tema patristico e tradizionale del sigillo, cioè della funzione che ha lo spirito di imprimere nell'anima i tratti del figlio. È appena il caso poi di aggiungere che il figlio, oltre che frutto dell'azione dello spirito, conduce a quel padre che peraltro è incontrabile solo nel figlio. Ne viene una concezione della grazia segnata quasi, da una circolarità tra le persone divine e le energie spirituali dell'anima. In questo modo la grazia non sopraggiunge esteriormente alla persona, ma pur nella sua gratuità porta a quella pienezza a cui essa era già rivolta per disposizione creaturale. Qui la teologia del Rosmini va al di là del suo ambito di riflessione critica. La grazia diventa vita, diventa esperienza, tanto che tutta la vita spirituale vi si deve alimentare. Lo leggo perché è più mistica, è più spiritualità che non teologia. È dunque l'impressione dello spirito nelle anime, un cotale affetto d'amore, una cotal gioia della verità che si diffonde nell'anima, per quale affetto l'anima contempla e imbeve e si inebria nella luce della verità, e questo amoroso sentimento egli stesso è pieno di verità e sazia e adempisce il bisogno dell'anima intelligente. Per questo è che lo spirito divino dà chiarezza nelle anime al verbo divino. Questa è la sua concezione di grazia. Io devo dire che, per quanto non sia nuova per noi oggi, è certamente rinnovante alcune pagine della storia della teologia della grazia. La seconda nozione rosminiana è quella della grazia come ristorazione. Ristorazione è un termine sintetico che indica unitariamente i due classici momenti della giustificazione: la remissione dei peccati e la santificazione dell'anima. Si tratta di una tematica che mette la grazia di fronte all'uomo peccatore per mostrare come Dio si appropri il peccato che pesa sulla sua creazione e, prendendolo sul serio, si adoperi per annullare la realtà e le conseguenze di ogni separazione da lui. Al centro di questo discorso sta, cito Rosmini, l'ordine della giustizia, il qual ordine è necessario, e Dio, che è la giustizia per l'essenza medesima, non può altro volere che lui, cioè se stesso. A questo punto Rosmini riprende con un po' di considerazioni la ben nota tesi anselmiana del Cur Deus Homo. ne consegue che sarà la nozione di giustizia a permettere di capire a fondo il concetto di ristorazione. E importa precisare l'ottica con cui Rosmini comprende questo concetto. Rosmini non conosce gli apporti biblici che in questi decenni da Lyonnais in poi si hanno abituati a leggere la giustizia di Dio come il Vangelo della misericordia del Padre, come la sua volontà salvifica. La sua visione rimane ferma a una impostazione storico-salvifica che salda insieme dati biblici e tradizionali. Per comprenderla a fondo bisognerà richiamare la lezione di Rosmini sullo stato originario e sul peccato originale. Riprendendo la distinzione patristica tra similitudine e immagine, Rosmini presenta la similitudine come la vita intellettiva con cui l'uomo si applica all'essere e l'immagine come il dono della grazia divina. In fondo, è la lezione tridentina circa lo stato di santità e giustizia insegnata nel decreto sul peccato originale. Cercando di chiarire meglio il loro rapporto tra similitudine e immagine, Rosmini osserva che la grazia di Adamo innocente era perfettiva di tutta la natura umana, però che per natura umana si intende il complesso dei principi che entrano a comporre l'umanità. Se dunque la grazia saldava e rinforzava, anzi, pur completava l'ordine in cui debbono tenersi questi principi, sia di soggezione all'essere divino, sia di subordinazione fra loro, egli è manifesto che giovava mirabilmente a tutto il complesso di questi principi, mantenendolo in loro e completando il giusto ordine, il che è quanto dire giovava e nobilitava la natura umana. Ciò che in questa lunga citazione mi interessava era la concezione sottesa, evidente, di justitia originalis. È così, secondo il dato biblico e della tradizione, che Rosmini intende l'ordine della giustizia. La justitia originalis è una concezione per lui, diversamente dal Capreolo, che ha nella grazia il suo perno, ma lungi dal limitarla al campo soprannaturale, la vede come incisiva, come guida e orientativa della condizione umana. Parlando dei primi uomini, dice infatti che l'unica loro felicità è la giustizia stessa, è Dio stesso. Quindi la loro volontà della giustizia si immedesima con la volontà di essere felici, però che questa felicità è oggimai determinata e tutta prefinita dalla sola giustizia trovata nella divina essenza. In questo quadro il peccato è descritto come la perdita della condizione di giustizia. Si vede nei sensi dell'uomo una inordinazione manifesta. E questa inordinazione è appunto il rovesciamento, il ribaltamento dell'ordine della giustizia. Ecco, su questo sfondo generale si comprendono le due affermazioni complementari attorno a cui Rosmini raccoglie il suo discorso sulla grazia come ristorazione. La prima declina il carattere polemico e drammatico di una salvezza che si oppone ad ogni ottimismo morale, precisando, nel senso della tradizione, l'impossibilità per l'uomo di salvarsi da solo. Il principio, adunque, scrive, della ristorazione dell'uomo non era nell'umana natura. La seconda ricorda invece il carattere teocentrico di una salvezza che si lega all'amore eccedente e gratuito del Padre, non alla volontà etica dell'uomo, chiarendo così il ruolo unico e insuperabile di Cristo. L'umanità di Cristo, scrive, è il veicolo della santificazione degli altri uomini. Abbiamo qui un passaggio. L'ordine della giustizia passa quindi dall'ordine adamitico all'ordine cristologico. Abbiamo qui un passaggio che è importante, perché in questo passaggio l'ordine della giustizia si svuota di fatto di ogni aspetto giuridico ed etico. Al centro viene quel Dio di grazia presentato nel Vangelo che, in forza del nostro essere in Cristo, riversa su di noi tutta la compiacenza del Padre per il Figlio. L'oggetto delle compiacenze del Padre, scrive Rosmini, non è di per sé l'uomo, ma il Verbo divino. In questo, il Verbo, non va peccato né difetto. Egli è la giustizia stessa, perché è Dio come il Padre. Ora l'eterno disegno si fu che questo diletto del Padre si unisse con l'umanità, per modo che con essa formasse una sola persona. La giustizia di Dio concentrata in Cristo non ha più nulla dello stampo etico della prima giustizia. Concentrata in Cristo, la giustizia di Dio altro non è che la sovrana libertà di Dio, che opera attraverso la grazia di Cristo e il dono dello Spirito. Questo cristocentrismo va inteso nel senso che l'umanità di Cristo, attraverso la comunicazione dei suoi misteri, è il vero fondamento della nostra salvezza, i sacramenti. L'Eucaristia, soprattutto, ne sono il mezzo. I sacramenti sono la presenza storica della umanità di Gesù nel quale soltanto siamo salvi. Spiace non avere il libro quinto, non essere cioè in grado di sviluppare fino in fondo questo cristocentrismo che il testo dell'antropologia soprannaturale prometteva. La mancanza del libro quinto e del libro sesto non permette di intuire tutti gli sviluppi che Rosmini ne avrebbe potuto tirare. In particolare, non siamo in grado di vedere quanto e come questo spostamento della giustizia dalla condizione di Adamo a quella di Cristo avrebbe influito sulla ampiezza della ristorazione. A puro rigor di logica si dovrebbe dire che il processo di realizzazione della giustizia cristologica dovrebbe mantenere l'ampiezza di orizzonte che ha in Gesù, lungi cioè dal chiudersi in una prospettiva individualistica, dovrebbe svelarsi come vittoria su tutte le potenze di peccato che dominano il mondo e dovrebbe venir assimilata ad una nuova creazione del cosmo. In questo modo la ristorazione acquisirebbe una valenza messianica ed escatologica. Il dono della grazia illuminerebbe e mobiliterebbe la libertà umana e la manterrebbe nella speranza di fronte all'ampiezza del negativo. E su questa base sarebbe forse possibile aprire anche un confronto fra la grazia e i processi umani e razionali di emancipazione e di liberazione. Siamo però a livello di pure supposizioni e niente ci permette di considerarle realtà. Di fatto, le parti che abbiamo rimangono nel quadro di un rinnovamento della interiorità della persona e non sviluppano, come potrebbero, una autentica teologia della storia. Forse l'aveva riservata per il libro quinto, forse. Questo forse ci accompagnerà. Probabilmente il rifiuto delle tesi protestanti che presentano la vittoria sul peccato e la giustificazione dell'empio come del tutto indipendente dal rinnovamento della persona, perché la giustizia rimane una giustizia aliena, extra nos habitans, probabilmente questa polemica avrebbe spinto Rosmini a completare la gloria del Redentore con la gloria della creazione restaurata. Però dobbiamo prendere atto che la tesi della ristorazione è di fatto una tesi dimezzata. Non giunge fino a quelle prospettive messianiche ed escatologiche a cui potrebbe di per sé giungere. La terza tesi è quella della grazia come compimento. È una tesi che puntualizza i rapporti fra la grazia e la persona. Là dove la grazia è vista come l'atto personale con cui Dio chiama l'uomo a partecipare alla sua vita, non si può non interrogarsi sul tipo di risposta che l'uomo può dare. Oggi come oggi questo tema è dominato per un verso dalla polemica aperta dal Delubac contro l'estrinsecismo e l'accidentalità della grazia, su cui ci ha con sapienza fermato ieri il professor Conigliaro, e per un altro verso è dominata dall'ingresso del pensiero personalista. Delubac mette sotto accusa il concetto di natura pura come un totale stravolgimento della tradizione cristiana. A Cayetano e Suarez imputa di aver legittimato per la persona la mostruosità di un fine naturale, essenziale per la comprensione di una natura spirituale. Il tema di una eventualmente legittima finalità naturale dimentica che solo la tensione alla comunione con Dio può davvero introdurci nel paradosso dell'uomo. La logica dei due fini e l'ottimismo della disposizione negativa, che sono la sostanza del suarezianesimo, finiranno per emarginare la grazia. La grazia è un di più. Il pensiero personalista, invece, metterà l'accento sul bisogno di rispettare un po' di più le categorie bibliche. Non si è riflettuto abbastanza, scrive Alfaro, sul fatto che l'aspirazione fondamentale dell'uomo non può saziarsi col possesso di un oggetto, per quanto lo si supponga infinito. L'uomo non può raggiungere la sua felicità piena in una relazione soggetto-oggetto, ma in una relazione io-tu, cioè nella unione con una persona. Se fosse possibile all'uomo impadronirsi dell'infinito come di una cosa e farlo suo come di un oggetto, non per questo sarebbe felice. La pienezza dell'uomo non può consistere se non nella sua unione immediata con un infinito personale. Ovviamente non abbiamo in Rosmini la piena coscienza di questi problemi. Tuttavia abbiamo alcune delle intuizioni più felici su cui, a parer mio, il suo pensiero è anticipatore della sostanza delle riflessioni successive e ancora oggi ha qualcosa da insegnare circa la serietà e la profondità dei rapporti fra la natura e la grazia. Rosmini avverte con nitidezza il problema. Scrive: «È singolare e degno di ogni attenzione il riscontro che va fra l'ordine naturale e l'ordine soprannaturale dell'uomo, fra il sentimento che costituisce l'uomo un essere ragionevole e il sentimento che costituisce l'uomo un essere congiunto con Dio. Tutte e due questi sentimenti sono formati dall'unione dell'essere allo spirito umano. Il primo è l'unione dell'essere ideale, il secondo dell'essere reale. L'idea dell'essere data all'uomo il rende intellettivo. L'essere stesso, il Dio, agente nell'uomo, solleva quest'essere intellettivo ad una specie nuova di intelligenza, qual è il soprannaturale. La prima è una concezione, la seconda una percezione, sebbene solo incipiente in questa vita. La prima è come una delineazione dell'essere, la seconda è il compimento, il realizzamento dell'essere nell'uomo. Abbiamo qui la sua tesi. Ciò che è naturale, usiamo il suo termine un po' brutto per noi, ciò che è naturale giunge al suo realizzamento solo nell'accoglimento del soprannaturale. Questa tesi non è costruita attorno all'antropologia, ma alla serietà della considerazione della cristologia. Questa tesi prende sul serio la centralità di Cristo fino a cogliere come in Lui tutta l'umanità sia chiamata alla comunione con Dio e non possa raggiungere nessuna meta se non per quella via. Per apprezzarla è basilare tanto il vedere se e come Rosmini tratti della natura pura, quanto il precisare meglio i rapporti tra l'ordine naturale e quello soprannaturale. Innanzitutto va indicato che il concetto rosminiano di natura è diverso da quello della teologia del tempo. Rosmini fa derivare la nozione di natura dal verbo nascere, e per lui la natura designa l'essere storico e concreto della persona nella sua unità. Siamo a livello di storia, di concretezza storica, ed è a questo livello che egli si pone, non già a livello della nozione filosofica, teorica e astratta della nozione di natura. A partire da questa concretezza storica, Rosmini mostra di conoscere a fondo il dato della tradizione e di collocarsi in essa. Da una parte afferma la piena gratuità dell'ordine soprannaturale e dall'altra ricorda la predisposizione incondizionata ma efficace dello spirito umano a Dio. È nell'ambito di queste tesi che Rosmini menziona la natura pura. Sebbene, scrive, non era condecente alla infinita bontà del Creatore che avesse creato l'uomo abbandonandolo alla propria natura senza aggiungergli la grazia, tuttavia non è assurdo di supporre l'uomo in tale stato, ed è una di quelle supposizioni che aiutano ad analizzare ciò che si compone di più principi e a vedere che cosa a singoli principi si debba attribuire. Come si vede, Rosmini parla della natura pura come, sono le sue parole, di una supposizione che aiuta ad analizzare, come di uno strumento logico per salvaguardare la trascendenza, l'aldilà del soprannaturale. A Rosmini serve per mostrare come l'Adamo innocente aveva la possibilità di peccare e ha di fatto peccato, pur rimanendo sempre una persona umana. Tuttavia, per lui, se si tratta di supposizione che aiuta ad analizzare, né l'Adamo innocente né l'Adamo peccatore appartengono allo stato di natura pura. Entrambi, a titolo diverso, sono sotto il segno della grazia. La natura pura per Rosmini è un concetto formale, necessario per esprimere la creaturalità chiamata alla grazia, ma che deve essere continuamente oltrepassato a favore del senso vero stabilito da Dio per l'uomo. E questa è alla fin fine la medesima conclusione a cui è giunta la teologia attuale dopo i dibattiti suscitati dall'Humani Generis e dopo la ripubblicazione del Mister du Surnaturel, senza che di per sé fosse tolto il veto alla circolazione. Rosmini però non ferma il suo discorso soltanto all'affermazione della gratuità e alla condanna della nozione di natura pura. Pur ribadendo la gratuità, non accetta la posizione scolastica di una disposizione negativa, di una non contraddittorietà, ma sente il bisogno di richiamare la predisposizione incondizionata che apre la persona a Dio. Niente adunque di più confacevole alla natura dell'ordine naturale, alla natura congiunto, il quale non è poi altro se non un totale compimento di perfezione che esige necessariamente la limitazione di essa natura, la quale, solo con l'unirsi al suo creatore, ottiene la sua ultima cima e perfezione, e coronata quasi da Dio, acquista consistenza, dignità, partecipa di quegli attributi divini nei quali solo risiede la nobiltà e l'eccellenza. Laddove questa apertura al soprannaturale è coniugata con la gratuità, con l'impossibilità di esigerlo, abbiamo la sostanza della dottrina tradizionale della potentia obedientialis. E procedendo in questa direzione, Rahner formulerà la tesi dell'esistenziale soprannaturale come un a priori trascendentale dell'attuale ordine storico. Se Rahner, nei suoi articoli, riconosce a Brisbois il merito di essere un suo antecessore al riguardo, forse sarebbe meglio dire che ha un antecessore sconosciuto in Rosmini. Il problema vero è quello di motivare questa positiva ordinazione della persona a Dio nei termini rosminiani, e laddove il dato teologico deve farsi ultimativamente capace di esibire le sue ragioni, non è che possibile, non è che obbligatorio ricorrere alla dottrina rosminiana dell'essere ideale e dell'essere reale. Scrive infatti il nostro autore che nello stato naturale la forma dell'uomo è la verità, l'essere ideale, l'idea dell'essere. Nello stato soprannaturale la forma dell'uomo è Dio stesso, l'essere reale, terminato, sussistente. La forma dunque che si sopraggiunge all'uomo che entra a partecipare della grazia divina non è che quella che formava la sua natura, ma completata, elevata, mutata nella sostanza divina. Per Rosmini, cioè, la comunicazione che Dio fa di sé all'uomo sotto il profilo della intelligibilità, l'essere ideale, predispone la persona a quell'incontro con Dio in cui Dio si comunica in modo reale, nella sua sussistenza. Se sotto il profilo filosofico la distinzione tra essere ideale e essere assoluto salva Rosmini dall'ontologismo, sotto il profilo teologico questa distinzione permette di cogliere come il soprannaturale completi la natura senza rimanere una entità posticcia e superficiale. In questo senso, l'uomo che è creatura limitata e peccatrice è per Rosmini chiamato a trascendere tutti i suoi limiti, non certo per merito proprio, ma per grazia di Dio. C'è addirittura qualcosa di teilhardiano, laddove nell'antropologia soprannaturale egli lega alla grazia una nuova legge di perfettibilità, a cui è avventuratamente soggetta non l'umanità abbandonata a se stessa, ma solo l'umanità aiutata da Dio. E questa nuova legge di perfettibilità guidata dalla grazia, che dovrebbe animare la persona, è un'intuizione, non di più, ma certo è un'intuizione che apre l'orecchio ad altre voci. Ecco, questo è un po' la teologia della grazia, e vorrei chiudere il mio discorso ricordando che, a parer mio, l'insegnamento forse più alto che la teologia di riesce a offrire è il suo impegno generale a livello teologico, su cui si è fermata la giornata di ieri, volto a sviluppare un'adeguata base filosofica in maniera non formale il dato della fede, quanto per dialogare con la cultura del proprio tempo. Le conclusioni concentrate attorno al tema della grazia sono in realtà il frutto di quello che di volta in volta ho già indicato. Quello che mi pare ovvio e naturale ammettere è la profonda distanza della teologia della grazia di Rosmini dalla corrispondente teologia di scuola. Non è una distanza polemica, ma è una distanza che corrisponde a un diverso progetto teologico, e perciò una distanza segnata da originalità. Anche se non una originalità assoluta, piuttosto vi è al fondo la sua personale capacità di assimilare il discorso patristico e il senso più profondo e più ricco della tradizione. La sua teologia della grazia fa rivivere la grande tradizione, il suo collocarsi in un solco non sconosciuto, ma minoritario. Meriterebbe certamente migliore attenzione dalla teologia d'oggi, anche se i temi della grazia increata, del cristocentrismo e anche dello spirito sono all'interno della teologia della grazia da considerare acquisiti. L'apporto più originale mi sembra quello della relazione tra grazia e persona. A prescindere dalla sua antropologia e dalle questioni filosofiche, il dato teologico che offre è ancora oggi una lezione decisiva. Su questo punto mantiene una sua attualità, la sua consapevolezza dei limiti umani e la sua sottolineatura della profondità della grazia non hanno smesso di essere di riferimento per chi cerca una sincera conoscenza dell'uomo e per chi vi riflette cristianamente. Invece la questione del carattere messianico della grazia, oggi certamente cruciale, non può avere una nitida risposta dal pensiero rosminiano. In chiusura vorrei portare un'ultima citazione che esprime credo l'intento del grande roveretano in tutta la sua fatica di pensatore e soprattutto in tutta la sua grandezza di credente e di teologo. I filosofi, scrive, trovano strano che la creatura abbia bisogno del suo creatore. Vogliono che essa pur basti a se stessa. Ma quanto sono lontani dal conoscere la natura umana. Hanno pure una singolare idea del creatore e della creatura, che questi siano esseri insociabili fra di loro. Ma quanto sono lontani dal conoscere il creatore. Ecco, mi pare che possiamo così, credo, chiudere un po' questa presentazione della teologia della grazia.